Build a house next door to you. Oh, can I make love to you once in a while? You can go kissing through the vine. When I come out on the front, girl, you ought to listen to my heart going bumpity bumpity bump. Buonasera a tutti, buon sabato sera e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è come sempre Tonight Alive, che spero vi guiderà in questo, anzi accompagnerà in questo sabato sera per voi alla ricerca di chissà cosa, di divertimento, magari solo a casa. E allora ho preparato per voi questa nuova puntata che spero dalla sigla vi abbia già dato un po' di indicazioni. Torniamo in terra californiana, in terra di psichedelia e di fine anni 60. Questi erano uno dei gruppi cardine della Baia di San Francisco di quegli anni e forse uno dei meno celebrati per i meriti che poi ha avuto, riconosciuti ovviamente postumi nella storia della musica. Stiamo parlando dei Quicksilver Messenger Service. E come sempre in uso in questa trasmissione, prima di cominciare e di buttarci a capofitto nella biografia e nella discografia di questo gruppo, ricordiamo tutti i nostri vari canali per mettersi in contatto con noi, ovvero il sito che è wombat.noblogs.org, la nostra frequenza in AM in modulazione d'ampiezza per la zona fiorentina, che è 1359 1359, e i nostri canali social, che sono twitter.com/radiowombatfi e il nostro canale Facebook, che è facebook.com/radiowombatfirenze. E veniamo subito a noi e ritorniamo in quella California, anzi più esattamente nella baia di Frisco, nella baia di San Francisco, nella seconda metà degli anni 60, dove appunto prenderà vita il primo nocciolo di quelli che diventeranno poi i Quicksilver Messenger Service, appunto. E più o meno è il 1965. E nasce dall'idea del cantante, chitarrista e songwriter Chester Powers, in arte Dino Valenti, oppure si è firmato anche Dino Valente, oppure come vedremo poi anche Jesse Horace Farrow. Già reduce da diverse avventure musicali, tra l'altro, perché proprio all'inizio degli anni 60, tra il 61 e il 63, è stato in giro per il Greenwich Village newyorkese e si è esibito con dei pezzi da 90, direi, del Greenwich Village. Artisti del calibro di Fred Neil, Karen Dalton, Bob Dylan, Richie Havens. E poi dopo si è spostato a Los Angeles e subito si è fatto conoscere come autore e interprete di quella Let's Get Together, che poi verrà portata al successo dai Jefferson Airplane e anche coverizzata tra i tanti anche dagli Youngbloods. E addirittura anche questa era una cosa che non sapevo, anche di, è l'autore anche di Hey Joe, che poi sarà resa immortale nella versione di Jimi Hendrix. Infatti, anche se Hey Joe era stata scritta da un altro autore, un tale Billy Roberts, Chester Powers di Novalenti è stato più svelto di lui a registrarne il copyright nel suddetto ufficio, e quindi insomma è stata proprio una questione di velocità e di furbizia per il nostro Dino Valenti, che si è impossessato dei copyright di Hey Joe, poi appunto diventata uno straclassicissimo della storia del rock nella versione di appunto di Jimi Hendrix. E tant'è che quando da Los Angeles appunto si sposta a San Francisco, capisce al volo che è il momento di mettere da parte il folk che tanto andava da quell'altra parte dell'oceano per abbracciare il rock, e quindi inizia a mettere su insieme una nuova band che lo accompagna, e sceglierà i chitarristi John Cipollina e Alexander Skip Pence, che tra l'altro, se vi ricordate, abbiamo già incontrato, e l'armonicista Jim Murray e il batterista Casey Sonoban e anche il bassista David Freiberg, che anche lui abbiamo già incontrato, se vi ricordate bene. E però di lì a brevissimo Sonoban e Skip Pence, intuita la scarsa affidabilità di Dino Valenti, se ne vanno praticamente subito, e il secondo dei due passerà, come già detto, ai Jefferson Airplane, e poi formerà i Moby Grape, e al loro posto subentreranno il batterista Greg Elmore e il chitarrista Gary Grubb, che in arte si fa chiamare Gary Duncan. E per quanto assortito in maniera non proprio ortodossa, perché i due chitarristi sono entrambi solisti e mal si adeguano a fare la ritmica, a questo punto il sestetto base sembrerebbe tutto a posto. L'unico problema è che proprio mentre si verificano i suddetti avvicendamenti nella band, il buon Dino Valenti viene pizzicato dalla polizia per possesso di marijuana e messo al gabbio per un paio d'annetti, e i restanti membri della band non si danno per vinti, e nel dicembre del 1965 si presentano per la prima volta in pubblico battezzandosi appunto Quicksilver Messenger Service. E poi, come ricorderà John Cipollina, perché questo è uno dei grandi misteri, era uno dei grandi misteri della storia del rock, la nascita appunto di questo nome così particolare per la band, e in un'intervista non molto recente John Cipollina ci ricorda come era nato appunto il nome della band, ovvero: io e David siamo nati lo stesso giorno, e così Gary Duncan e Greg Elmore, siamo tutti della Vergine, mentre Jim era dei gemelli. Vergine e gemelli sono segni governati da Mercurio, che in inglese è Mercury, ma è anche Quicksilver. Mercurio era il messaggero degli dèi, giusto? Freiberg tirò le somme. Chiamiamoci Quicksilver Messenger Service. E ecco appunto come è nato molto semplicemente il nome di questa band. E appunto nei due anni seguenti la band si costruisce una solida fama live che batte nettamente quella delle altre due formazioni di punta della psichedelia locale, ovvero i Jefferson Airplane e i Grateful Dead. Il suono dei Quicksilver che sprigionano i Quicksilver sul palco è per tutti inedito e assolutamente inaudito. La doppia solista, chitarra solista, infatti regala una varietà di accenti che gli altri gruppi non possono assolutamente permettersi. Si tenga conto anche a questo punto che questa invenzione è stata, diciamo, abbastanza casuale, visto che appunto la chitarra ritmica doveva essere di Novalenti e invece appunto Cipollina e Duncan erano due chitarre soliste, quindi si erano dovuti adattare. E appunto è stata una grande scoperta per il mondo del rock, anche se, come abbiamo visto già, i John Mayer and the Blues Breakers erano andati in quella direzione, anche se in un ambito più puramente blues. E appunto, in attesa dell'uscita di Novalenti dalle patrie galere, il pubblico iniziò a suonare nei locali storici degli hippies, e ci sono tantissime poi postume venute fuori, tantissime registrazioni di quel periodo, una è anche Live in San José. E da lì a poco anche l'armonicista Jim Murray lascerà la band. Però ecco, il suono del gruppo non era particolarmente in linea con la moda hippie del momento, e il complesso dovette aspettare il grande festival, il leggendario direi festival di Monterey del 1967, per trovare un contratto con la Capitol Records e iniziare a registrare il loro primo album, che sarà l'omonimo Quicksilver Messenger Service del 1968, e questa è il pezzo di apertura di questo disco, Pride of a Man. Quicksilver Messenger Service, Tonight Alive, Radio Wombat. In the dust again. Oh. many waters, rich in treasure, wide in fame. You bow unto your God of gold. Your pride of might shall be your shame. For only God can lead his people back unto the earth again. Questa era la epica Pride of Man, canzone di apertura appunto dell'album d'esordio omonimo dei Quicksilver Messenger Service, uscito nel maggio del 1968. L'album è prodotto da tre esperti produttori come Nick Gravenites della Paul Butterfield Blues Band, Harvey Brooks, che aveva già prodotto album per Bob Dylan ad esempio e gli Electric Flag, e anche da il terzo è stato Paul Welding, che era un bluesman e un noto produttore blues che tra le altre aveva prodotto Josh White e anche Mississippi Fred McDonald. E l'album mette in mostra un gruppo di musicisti sicuramente smaliziati e capaci di impreziosire con infinite sfumature canzoni delicate come Light Your Windows e Dino Song, oppure di esaltare una cover del cantautore inglese trapiantato negli States, Hamilton Camp, che era appunto questa Pride of a Man, era una cover di Hamilton Camp. Ma anche di svariare lungo brani più complessi, più o meno blues, come la lunga suite The Fool e la jam strumentale Gold and Silver, che da sole tra l'altro coprono i due terzi dell'intero album. E vi avrei voluto far sentire anche la prima, The Fool, perché sicuramente ne sarebbe valsa la pena una lunga improvvisazione psichedelica, ma è lunga davvero, che supera il quarto d'ora, e visto che mediamente le canzoni di stasera sono tutte piuttosto lunghe, ho deciso di lasciarvela a un vostro casomai eventuale futuro approfondimento. E tra l'altro composizione che ne vale la pena, perché c'è anche l'accompagnamento di viola di Freiberg, e invece nella seconda, Gold and Silver, che tra l'altro adesso andremo ad ascoltare, è uno stupendo strumentale scritto da Gary Duncan, una bellissima cavalcata psichedelica molto liquida che traccerà la strada del gruppo, anche se ovviamente non verso il successo, perché vedremo che non ne avranno molto. E anche solo per queste due composizioni vale la pena, se non l'acquisto dell'album secondo me, ma quantomeno l'ascolto. Ma anche se effettivamente, per avere un effettivo confronto con le reali devastanti potenzialità della band del periodo, forse vale più la pena di ascoltare due meravigliosi live del periodo, appunto per sentire la vera carica del gruppo, che magari in studio era un po' tenuta, diciamo. E sicuramente questi due live da consigliare a scatola chiusa sono il primo, il live at Fillmore del 7 giugno del 68, e anche poi il successivo live al Winterland del novembre dello stesso anno. Ma adesso andiamoci a sentire la versione dell'album di Gold and Silver, Quicksilver Messenger Service, Radio Wombat, Tonight Alive. Thank you. veramente stupenda questa, secondo me, questa Golden Silver, veramente un direi una delle pietre miliari della, della prima psichedelia californiana. E meno di un anno dopo da questo esordio sulla lunga distanza dei Quicksilver, il 29 marzo del 1969, quando ormai l'era psichedelica è agli sgoccioli, infatti da lì a breve ci sarà l'epitaffio della Summer of Love con Woodstock, arriverà nei negozi di dischi Happy Trails, album con pezzi inediti registrati quasi tutti dal vivo al Fillmore East e al Fillmore West di San Francisco. Infatti solo Calvary viene realizzata e registrata in studio. E per descrivere questo, che poi diventerà un'autentica pietra miliare di tutta la psichedelia, penso che non possa esserci modo migliore per descriverlo se non le parole di Julian Cope, critico ma soprattutto, prima di tutto, musicista della, della band post-punk, di tutto il movimento post-punk inglese, dei Teardrops Explode. Oltre a essere musicista, uno dei critici di punta inglesi, secondo me, e appunto questa è la descrizione che dà Julian Cope dei Happy Trails, dei Quicksilver Messenger Service. Cipollina e Duncan si scambiano il ruolo ritmico e solista così continuamente che, nonostante l'estrema separazione dello stereo, infatti Duncan sul canale sinistro e Cipollina sul lato destro, non ascoltiamo altro che una serie infinita di intuizioni e di guizzi di forze opposte che si attraggono e si respingono senza tregua. A volte il ritmo di Duncan è un grasso e basso ronzio punk che sbatte contro gli acili contrappunti di Cipollina. Talvolta gli assolo di Cipollina sono piccoli e strategici colpi ritmici, mentre la ritmica di Duncan pare più un assolo reso in frasi brevi e ripetute. Questa libera fluttuazione è inoltre accentuata da un controllatissimo feedback e da pungenti arpeggi eseguiti nei toni più puri. E lo stile di Cipollina, più classico, pulito, tremolante e melodico rispetto a quello di Duncan, più liquido, sfuggente e indulgente su scale jazzy e esotiche, si completano alla perfezione producendo autentiche magie. L'intero lato A è dedicato a una formidabile versione di Who Do You Love, altra cover di Bo Diddley. Qui purtroppo nella versione registrata, un po' tagliata rispetto ai consueti 27-29 minuti della sua versione live, perché ovviamente una facciata di vinile non sarebbe riuscita a contenerla tutta. E la traccia è divisa in 6 movimenti, proprio come una suite, e l'inizio e la fine nel segno di una rivisitazione psichedelica dell'originale, e al centro le 4 variazioni autografe dove gli eleganti e fantasiosi accordi e tempi di Duncan fanno la parte del leone nel movimento When You Love. Cipollina invece tiene la consueta parte del rocker classico e vigorosa nel movimento più breve How You Love, di appena 2 minuti e mezzo. Freiberg dice la sua con il suo basso fibrillante nel movimento Which Do You Love, e c'è anche spazio per una digressione collettiva ed effettistica che diremmo quasi space Pink Floydiana in Where You Love. E appunto adesso ascoltiamoci 3 dei 6 movimenti, gli ultimi 3, ovvero how You Love, Which You Love e Who Do You Love, e questi ovviamente sono sempre i Quicksilver Messenger Service con questa loro mitica, mitologica suite di Happy Trails su Radio Wombat, Tonight Alive. Thank you.

stupenda questa versione di Who Do You Love di Bo Diddley. Sembra veramente incredibile questa canzone, che appunto nelle sue versioni live poteva raggiungere addirittura la mezz'ora, fosse originariamente un pezzo rhythm and blues di 3 minuti scarsi. E bellissima, ma questo è un disco che veramente varrebbe la pena di farvelo sentire veramente tutto, canzone per canzone, e mandato a memoria. Infatti il gruppo maturò nettamente con questo Happy Trails, che rivelò una formazione compatta e micidiale, capace di distillare un sound fluido e arcano senza perdere nulla dell'eleganza classica che li contraddistingueva. Il, tra l'altro, nota a margine di curiosità, il pioniere dei sound system della baia di Frisco, nonché figura mitologica per la psichedelia americana, perché era anche il sintetizzatore ufficiale di LSD per tutta la baia californiana, Osley Stanley III, registrò diverse, essendo appunto un ingegnere del suono, e che era praticamente ovunque, a qualunque concerto di quel periodo in quell'area, è venuto fuori tantissime registrazioni dai suoi archivi tra il 66 e il 67, che poi appunto, se le volete andare a ricercare, ce n'è anche diverse dei Quicksilver Messenger Service, e sono poi state pubblicate nella sua etichetta discografica Beer Record una decina di anni fa. E questa appunto tutta la prima facciata di Happy Trails era coperta da questa lunghissima versione psichedelica di Who Do You Love di Bo Diddley. Invece la seconda facciata si apre con un'altra cover di Bo Diddley, in questo caso è stata la nostra sigla di stasera, ovvero Mona, e che poi è seguita da due brani strumentali composti da Duncan, ovvero la prima è Maiden of the Cancer Moon, dove tutti gli effetti di chitarra di Cipollina diedero i loro frutti psichedelici, direi, e la seconda è il Calvary, il pezzo assolutamente centrale dell'album e di una scena tutta, direi, un lungo trip gitano in cui la chitarra urla e sibila indemoniata mentre i rumori degli altri strumenti crepitano e si dilatano all'infinito, un fitto intersecarsi di rumori arabeggianti e di radata sperimentazione da soundtrack western morriconiana che si combinano in trasfigurazioni in psichedelia galoppante, estatica e visionaria. Un miracolo di cui, se pensiamo alla restante carriera della band, non ci si capacita. Un'operazione a cuore aperto di overdub di studio che si amalgamano nascondendo una complessità degna di una partitura classico-contemporanea. Chitarre elettriche ed acustiche, feedback modellato e ragionato, piano preparato e percussioni di ogni tipo suonate in ogni modo, che si alternano e si susseguono con scientifica precisione. La ciliegina sulla torta, poi, dopo un simile capolavoro, l'ironica chiusura affidata alla brevissima title track, ovvero appunto Happy Trails, che poi diventerà tra l'altro la sigla di un famosissimo show televisivo americano del singing cowboy Roy Rogers. Ma appunto adesso qui a Tonight Live andiamoci a sentire proprio questo pezzo di storia della psichedelia americana con Calvary dei Quicksilver Messenger Service. Tonight Alive. E questa era la lunga cavalcata psichedelica di Calvary dei Quicksilver Messenger Service, autentico capolavoro di quello che è appunto un altro capolavoro e pietra miliare della psichedelia, come appunto l'album Happy Trails. E prima ancora appunto che l'album Happy Trails esca nei negozi e si faccia in tempo a celebrarne gli autori, l'epoca d'oro dei Quicksilver subisce subito una brusca interruzione e arriva ad una prematura fine. Di punto in bianco Duncan lascia la band. Chi dice per problemi con le droghe, chi per la frustrazione di non riuscire a spingere i compagni ad allargare un proprio spettro musicale. E come è facile immaginare, rinunciare a uno come Duncan, che è il cuore pulsante della band. È un bel macigno per gli altri componenti che però non si perderanno d'animo e lo rimpiazzeranno con il tastierista inglese Nicky Hopkins, che è già molto popolare negli States, visto i suoi lavori con i Kings, i Beatles, gli Who, Jeff Beck e soprattutto con i Rolling Stone. Ma come è facile immaginare, l'introduzione delle tastiere, il passaggio da due chitarre a una sola, per giunta quella meno originale, stravolgono completamente il suono dei Quicksilver, che si ritrovano ad un tratto trasformati né più né meno in un altro gruppo, fondamentalmente. Non avendo mai avuto un vero leader, ma solo un motore che adesso non c'è più, i tre rimasti si affidano proprio alle mani di Hopkins, che da parte sua si ritrova a gestire una band la cui musica fino a quel momento è stata piuttosto distante, e usiamo un eufemismo, da quanto lui è abituato a suonare. E quindi nel dicembre del 1969 esce Shady Grove, il terzo album ufficiale dei Quicksilver Messenger Service, dove troviamo dentro il boogie della title track, una Three or Four Feet from Home, che è già puro southern rock. Ci sono altre ballate pianistiche, ovviamente, visto l'arrivo di Nicky Hopkins, dove tra l'altro nella flute song c'è anche un'altra volta la viola suonata da Freiberg, e troviamo anche altre canzoni già più sul versante country, come Words Can Say, o anche altri Mid-Tempo, Too Far, Holy Moly, che già hanno fortissimi echi Rolling Stoneani di più o meno il periodo di Exile on Main Street, scusate. Però direi che l'unico momento che vale veramente e totalmente la sufficienza di questo album è la lunga Edward the Madshirt Grinder. Un'invenzione pianistica di Nicky Hopkins, dalle ambizioni classicheggianti e orchestrali, direi, e anche sicuramente progressive, che però fortunatamente non straborda mai oltre il limite del buon gusto. E però siamo sinceramente a galassie di distanza da quelli che erano stati in precedenza i Quicksilver. Però, se non altro, i musicisti dimostrano un bel intuito commerciale e una notevole capacità di adattamento ai tempi e alle circostanze in cui si trovano. E appunto adesso andiamoci a ascoltare questa lunga Edward the Madshirt Grinder, che poi tra l'altro Nicky Hopkins riuserà anche riaccompagnato da tutti gli altri musicisti nel suo primo album solista, e questo appunto nella seconda incarnazione dei Quicksilver Messenger Service è Edward the Mad Shit Grinder, Tonight Alive. indemoniata questa Edward del Mad Shit Grinder, molto bella tra l'altro, anche secondo me, anche se con un suono completamente diverso, appunto come già detto, però questo pezzo qua è veramente, l'ho scelta apposta, mi sembrava veramente tanta roba per farvi sentire appunto questo terzo disco dei Quicksilver, questo Shady Grove, ora non mi riveniva in mente, comunque davvero molto bella questa composizione pianistica sorretta da tutta questa sarabanda di strumenti, molto bella, molto molto bella, mi è molto piaciuta. E nel 1970 escono altri due dischi, Just for Love in agosto e What About Me a dicembre, entrambi registrati alle Hawaii dalla medesima formazione a sei elementi. Infatti dopo l'anno sabbatico Gary Duncan è rientrato in pista, ma sono rimasti nel gruppo anche Nicky Hopkins, ed è ritornato anche giusto in tempo Dino Valenti, fresco uscito dall'Hotel Mille Sbarre, che finalmente corona il suo sogno di essere il leader della band che a torto a ragione è convinto di aver inventato 4 anni prima. E il nuovo arrivato si fa valere immediatamente, infatti scrive 6 canzoni su 9 con l'ennesimo pseudonimo, stavolta è Jess Oris Farrow, e per registrarle affitta un palazzo dove non c'è corrente elettrica, tanto per chiarire di che morte dovrà morire la band, appunto, alla quale non bastasse cambia anche il nome. Infatti da qui in avanti niente più Messenger Service ma soltanto Quicksilver. Come prevedibile, la musica è sostanzialmente quella di un cantatore folk rock accompagnato da alcuni comprimari. Meno prevedibile invece è che i due dischi ottengano il maggior successo commerciale della storia del gruppo. Infatti mai sopravvalutare la gente che compra i dischi. E tra l'altro il primo dei due album, Just for Love, produce anche un singolo che passa frequentemente per le radio, ovvero Fresh Air, il singolo estratto dal primo album che appunto adesso andremo ad ascoltare, giusto per farvi capire che punto, che fine, cioè che fine, qual è questa ennesima terza metamorfosi dei Quicksilver Messenger Service, che nel frattempo sono diventati solo Quicksilver. Fresh Air, Tonight Alive, Radio Wombat. What do you do to me? E questa appunto era Fresh Air, e pensate che diventerà pure il più grande successo commerciale della storia della band, raggiungendo la 39esima posizione di Billboard. E ovviamente, annusata l'aria che tira, Nicky Hopkins e Cipollina salutarono Valenti. E il primo ritornandosene in terra d'Albione e il secondo se ne va sentendo il suo talento tarpato dalla scrittura fondamentalmente di e per un cantautore in cerca di accompagnamento. E nel novembre del 1971 tocca quindi a Quicksilver con Dino Valenti, Gary Duncan, Elmore e il bassista Mark Ryan in arrivo dalla band di Country Joe per sostituire Freiberg, finito in gattabuia a sua volta per possesso di Maria Giovanna, e tale Chuck Stax all'organo. E ci sono tutte le premesse per l'ennesimo fallimento, ed invece incredibile è il miglior forse il miglior disco della band dai tempi di Happy Trails. E sarà che l'assenza di Cipollina responsabilizza e lascia più libero Duncan, autore di due delle nove canzoni, e le altre ovviamente sono scritte da Valenti. Sarà che questo Stax farà la sua parte senza mai risultare autoindulgente come talvolta capitava con Hopkins, e tra l'altro ci sono forti sospetti che dietro a questo pseudonimo Chuck Stax si celi il tastierista della Paul Butterfield Blues Band Mark Naftalin, che era già stato ospite in tre delle tracce di What About Me. E appunto è anche perché Chuck Stax è il cotennotto, è un taglio di carne di spalla bovina, è abbastanza difficile via che sia un nome proprio di una persona. E fatto sta che le canzoni, normalmente non irresistibili, appaiono molto più centrate e solide a partire dalla lirica Hope, e poi tra l'altro anche dal quasi hard rock di Play My Guitar, oppure dalla diradata psichedelia liquida di Fire Brothers. E adesso tra l'altro Fire Brothers era stata anche coverizzata dal fondatore dell'etichetta 4AD, Ivo Watts Russell, con i suoi This Mortal Coil nel brano Filigree and Shadow del 1986. E appunto adesso da questo album, da questo Quicksilver, vi farò ascoltare questi due brani estratti, ovvero appunto la citata Fire Brothers e Hope, sempre qui su Radio Wombat e ovviamente su Tonight Alive. Quicksilver. In the valleys and lovers play, little children were born on Saturday. One was dark, one was fair. Children you have never seen. Adesso subito a ruota ci ascolteremo sempre dallo stesso album Hope. If you say this was the eve of destruction, this morning, a new ray of hope for mankind, and your dead men, they are marching in legions to end games, a road where the highways begin, and your young people are leaving. Yeah. E non passeranno neanche 5 mesi e la stessa formazione, con l'aggiunta di ben 7 collaboratori a trombe, tromboni e sax, nell'aprile del 1972 pubblica Coming Through, sicuramente il disco più black della carriera della band. Senza dubbio un disco minore, derivativo certo, tantissimo rhythm and blues e funky rock, tutto molto easy listening e praticamente molto orientato alla classifica, con poche se non punte idee originali, anche se ad essere sincero secondo me sicuramente non il più brutto disco della discografia dei Quicksilver, perché alla fine sì, sembra quasi un incrocio tra l'Allman Brothers Band e innestato con un altro gruppo funkeggiante. Sì, effettivamente un esperimento molto rischioso e sicuramente non originale e dal prodotto incerto, ma alla fin fine qualcosa si fa ancora piacevolmente ascoltare, piacevolmente di sicuro, perché ho detto faceva molto l'occhiolino alla musica da classifica, e per questo Coming Through, il disco più black della discografia dei Quicksilver, andiamoci ad ascoltare adesso California State Correctional Facility Blues, sempre qui su Tonight Alive. Turn it over. I look over yonder. A quel punto, finito il contratto con la Capitol Records, il gruppo decise di fare la cosa migliore per tutti, ovvero sciogliersi ed ognuno andare per la propria strada. Ma nel 1975, Dino Valenti, ancora lui, richiama a raccolta Cipollina Freiberg, che nel frattempo era entrato in pianta stabile nella Jefferson Starship, Elmore e Duncan, che inspiegabilmente risposero tutti all'appello, e così, con l'aiuto anche del riconvocato Nicky Hopkins e Michael Lewis alle tastiere, nascerà Solid Silver, l'album del 1975 dei Quicksilver, appunto. E però questo me lo e ve lo risparmio, perché questo sì, secondo me, molto probabilmente il peggior disco mai inciso dalla band. E infatti subito dopo Nicky Hopkins se ne riscappò in Inghilterra, Freiberg si riaggregò giustamente alla Jefferson Starship, e invece Cipollina formerà altri gruppi come i Copperhead Man, Terry Dolan and the Pirates, i Raven, ma con successo sempre più scarso. E i Quicksilver sicuramente fecero da ponte fra l'acid rock di San Francisco, il blues rock di Chicago e il garage rock del nord. Il loro era un rock and roll poderoso e trascinante, condito più che condotto dalla chitarra di John Cipollina, forse non molto fantasiosa ma sicuramente impeccabile. Furono dei veri maestri della jam, forse più sofisticati dei loro cugini Grateful Dead, anche se sicuramente meno istintivi di loro. e fatta eccezione per due pezzi sul primo album in studio, non incisero mai musica psichedelica, cambiarono faccia più volte a seconda di chi teneva il bastone del comando, e questo bastone però passò di mano con una facilità e una noncuranza che rasentava davvero l'autolesionismo. Ma sul palco non avevano certamente rivali, gli interpreti migliori e più avanzati dell'epopea psichedelica americana. Ogni volta che ascolterete due chitarre scambiarsi i ruoli, circuirsi, duettare o battersi in qualunque contesto si muovano e qualunque musica producano, sappiate che devono qualcosa, se non tutto, a Gary Duncan e a John Cipollina. E dopo questo ultimo album non mi resta che appunto fare i doverosi saluti e ringraziamenti prima di farvi ascoltare il concerto che ho selezionato per voi stasera, ovvero un concerto chiaramente del 1968, del 4 aprile del 1968 alla Carousel Ballroom di San Francisco, chiaramente. Però sicuramente qui in fondo alla puntata volevo fare i doverosi e giustissimi ringraziamenti per la produzione e la registrazione di questa puntata. Sicuramente un ringraziamento a Stefano Isidoro Bianchi della rivista Blow Up, su cui ho attinto a piene mani per la puntata di stasera, e ovviamente anche a Piero Scaruffi e alla sua enciclopedia della storia del rock. E appunto adesso andiamoci a sentire i Quicksilver nella loro versione migliore, ovvero live, secondo me, almeno a gusto mio, nei loro anni migliori, ovvero quella della fine degli anni 60, un concerto che grandissimi classici, ma tutte delle canzoni fantastiche, blues, ma prese con il piglio a jam session e psichedelico tipico del gruppo. Si comincia con una Backdoor Man per poi andare a Light Your Windows, ovviamente Who Do You Love di Bo Diddley, Walking Blues, la loro The Fool, e per concludere vi avverto 41 minuti di jam improvvisativa, improvvisazione pura, che concludono il concerto con gli ultimi 40 minuti finali. E appunto ora qui il vostro Dalai Lama vi augura come sempre un buon sabato sera, un buon proseguimento della serata e spero anche un buon proseguimento di Quicksilver Messenger Service con il loro concerto, e vi rinnovo l'appuntamento ovviamente qui sulle frequenze di Radio Wombat a sabato prossimo con Basement Records. Un bacione a tutti, buon sabato sera, Wombat!